24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:22 minuti, eccoci qua, 24 mattino e radio24.it, cari ascoltatori. E allora, nel nostro sondaggio oggi parliamo di immigrazione, perché ieri ci è stato presentato un rapporto Caritas e poi ieri il Papa ha detto: emigrare è un diritto e accogliere un dovere. Siete d'accordo con questa posizione? Vi chiediamo nella nostra domanda di oggi, votate su radio24.it nell'home page, ne parleremo alle 8:30 con gli ospiti ed ora, come di consueto, i giornali. Manutencoop Facility Management, la manutenzione per i tuoi ambienti, vi presenta In Primo Piano. Mercoledì 27 ottobre, sulle prime pagine troviamo tagli diversi, ripresa sempre più lenta, questo è il Sole 24 Ore in prima pagina. C'è chi sceglie il lodo Alfano, la trattativa sul lodo Alfano è il titolo del Corriere della Sera, mentre Repubblica, Berlusconi, lodo contro questi PM. La casa di AN, non c'è truffa, così titola La Stampa, mentre Libero, i PM graziano Fini e il giornale Fini è indagato ma l'hanno nascosto. Mentre il Fatto Quotidiano, sulla storia anticipata ieri e che è esplosa inevitabilmente oggi, Berlusconi, la minorenne e quella strana adozione. Questo è il titolo di apertura del Fatto. La vicenda, come detto, la vedremo, è stata anticipata ieri dal Fatto Quotidiano e oggi ovviamente ci ritorna. Io però, in questo anticipo di segnalazioni, in questo scampolo di tempo, voglio andare sulla Stampa e a pagina 21 trovate questa storia scritta da Stefano Sergi: non pagano la mensa, gogna sul web, una gogna per i genitori, pure per i bimbi, con tanto di nome e cognome, colpevoli di non aver pagato le rette della mensa scolastica. Succede a Pont-Saint-Martin, centro della Val d'Aosta, il confine col Piemonte, dove si è scatenato un putiferio attorno alla mossa dell'amministrazione comunale. L'identità di chi non ha pagato le rette delle mense scolastiche è finita sul sito internet del comune, esposta all'udibrio pubblico. Ovviamente il sindaco si difende, dice: c'è gente che ha accumulato un debito di 1500 euro e ci vuole un bel impegno, visto che la tariffa è di 3,50 euro al giorno, eppure non abbiamo mai sospeso il servizio in nessun caso. Ma su internet, la gogna sul web, il primo cittadino assicura che nessuno ne era al corrente, non si è trattato di una decisione politica. Possibile? Il funzionario del comune ci ha spiegato che è stata semplicemente espletata una procedura prevista dal regolamento, senza alcun intento di mettere in imbarazzo i cittadini morosi. Insomma, una storia che anche su Repubblica conquista mezza pagina: non pagano la retta dell'asilo, nomi pubblicati sul web, lo trovate a pagina 19. L'altra segnalazione è questa: 3 donne su 10 nei consigli di amministrazione. Sembra ormai che questo testo di legge, che ha avuto il via libera da Tremonti, potrebbe venerdì avere il via libera dal governo, è un disegno di legge bipartisan in Parlamento, possa davvero andare avanti. È un disegno di legge che prevede 1000 donne ai posti di comando per legge, le cosiddette quote rosa, una rivoluzione che potrebbe arrivare presto, portandoci al livello della Norvegia. Vale a dire un testo di legge che prevede che il 30% dei consigli di amministrazione delle società, soprattutto quelle quotate in borsa, sia composto da donne, con il limite temporale per le quote fissato in 3 mandati. Chi non si adeguerà, quando passerà questa legge sulle cosiddette quote rosa, i consigli di amministrazione che si ostineranno a non adeguarsi a questa regola decadranno. E tutto questo varrà anche per società come la RAI, Alitalia, Eni, Enel, Ferrovie, Poste. 3 donne su 10 nei consigli di amministrazione, volata finale per la legge. Monica Guerzoni ne parla e ne scrive sul Corriere della Sera. C'è anche un dossier a pagina successiva, pagina 23, di Francesca Basso: le grandi aziende, un'analisi di come sono, di quante sono poche, per la verità, le donne, la quanto è alta o meglio bassa la presenza femminile nei consigli di amministrazione delle grandi società. Ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi ripartiamo dalle notizie di politica e di cronaca sui giornali. In Primo Piano, Eccoci qui, la politica ancora si muove attorno alla questione della giustizia del lodo Alfano, che ieri Berlusconi è tornato a definire indispensabile in un'anticipazione del libro di Vespa. Oh santo cielo, tornano le anticipazioni che ci verranno distillate goccia a goccia ogni giorno del libro di Bruno Vespa. Il retroscena di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, la condanna a trattare confini aspettando la consulta. Berlusconi sarà pure infuriato per la disparità di trattamento operata ieri a suo giudizio dai magistrati, sarà pure rabbuiato per il fatto che nello stesso giorno, mentre la Procura di Roma ha restituito in parte l'onore a Fini sul caso Monte Carlo, quella di Milano ha intaccato la sua immagine per una presunta nuova storia di festini e donnine, però è consapevole di non poter reagire. Scrive Verderami, è tutta una questione di date, perché prima di uscire allo scoperto Berlusconi deve ottenere dal Senato l'approvazione del lodo Alfano, confidando che il voto di un ramo del Parlamento blocchi la decisione della consulta sul legittimo impedimento prevista per il 14 dicembre. Tutto il resto non conta. Insomma, è tutta una questione di date, per cui Francesco Verderami spiega ecco perché fino al 14 dicembre, o comunque fino a quella data, fino poi superata la boa di metà marzo dell'anno prossimo, non si potrà capire se le elezioni sono davvero scongiurate oppure no. Tutto è appeso al nodo giustizia, anche se per Repubblica con Francesco Bei, eccolo qui l'altro retroscena, c'è un Berlusconi che sotto traccia sarebbe infuriato, tanto che dice tanto vale tornare a votare, non si va avanti, non riusciamo a fare nulla. Berlusconi definito come un fiume in piena che vorrebbe ribaltare il tavolo, mettere fini sotto i cingoli della nuova macchina da guerra su cui lavorano pancia a terra i suoi uomini. Perfino un prudentissimo Alfredo Mantovano, sottosegretario agli interni, ieri ha detto si andrà a votare in primavera. Questo ovviamente nei retroscena della politica, proprio nel giorno in cui Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, ha come scrive Nicoletta Picchio a pagina 5 del Sole, ha ribadito è insostenibile una crisi di governo, andare alle elezioni anticipate sarebbe un qualcosa che il paese non può permettersi, di una crisi né una campagna elettorale in una situazione disastrosa come questa. Staremo a vedere. Certo che gli smottamenti della politica si registrano anche andando a vedere sia Corriere Repubblica ma anche l'Unità, a pagina 8 per esempio, un altro ex fondatore di Forza Italia che è deciso a lasciare il Popolo della Libertà, si tratta di Alfredo Biondi, che dice deluso dal PDL, è un partito di marmo, fa un'intervista all'Unità appunto a Federica Fantozzi a pagina 8 e 9, la dialettica latita, l'ho detto al congresso, ero convinto di partecipare a un nuovo umanesimo liberale, ho sofferto che non succedesse, resterò liberale, non sarò nemico del PDL ma sollecitatore esterno. Ma anche sul Corriere Repubblica, come detto, Berlusconi sarebbe preoccupato per il numero di parlamentari che insomma hanno fatto registrare qualche malumore. Biondi in uscita dal PDL, ecco qui sul Corriere, da Massidda a Mazzucca impazza il Toto FLI, Futuro e Libertà. Su Repubblica invece Antonello Caporale intervista uno, Enrico Musso, senatore, che sta meditando anche lui l'addio al Popolo della Libertà. Poca democrazia nel partito, ora basta coi senatori on demand. Un'intervista, come sempre, botta e risposta spettacolare, quella di Antonello Caporale a pagina 4 di Repubblica. Sono fuori posto, me lo dico da me. Così il professore e senatore Enrico Musso, docente di economia applicata a Genova, inizia questa chiacchierata. Sono qui su indicazione di Berlusconi, è vero. Ma chi viene qui a Roma ha due condizioni. O si abbelina, scusi, traduca dal genovese, totalmente si rincoglionisce, dunque si pappa la vacanza romana, l'indennità di riguardo, dorme, passeggia, quando lo chiamano pigia il pulsante, il tipico senatore on demand, non domanda, non fa, non ambisce, poltrisce. Oppure il tizio non è totalmente abbelinato e impiega il tempo a leggere le leggi che dovrebbe votare, io purtroppo le leggo e se fanno schifo lo dico, un po' belin ci sono. Così dice di se stesso il senatore Mussi, che all'invito, ma lasci il Popolo della Libertà a questo punto. Ci sto pensando seriamente e da tempo, chiederò un incontro a Berlusconi e gli dirò, intanto mi do da fare. Ma lei appoggerebbe anche un governo tecnico di larga intese? Probabile, a dirla tutta, anche il PDL non lo vedo fuori da un esecutivo di tal fatta. Non esageri. Eppure, guardi, dice il senatore Musso, serpeggia una voglia matta, in tanti sono pronti a fare la birichinata. Ma la politica si anima di tutti questi retroscena, di grandi movimenti da mesi, poi non succede nulla in concreto, ma insomma sembra tutta una situazione di grande stallo. Ciò che si muove è la questione giudiziaria, certamente. Intanto Fini si è scoperto che era indagato da un paio di mesi per la casa Monte Carlo, ma la procura ha detto l'inchiesta è da archiviare. Tra l'altro il Corriere della Sera, pagina 5, fa sapere che la Guardia di Finanza ha fatto anche tutti i controlli sul caso di Giancarlo Tugliani, il cognato di Fini, fratello della compagna di Fini. Gli ultimi accertamenti sono stati compiuti esattamente una settimana fa per verificare che le spese siano congrue con l'affitto da lui pagato appunto alla casa Monte Carlo. E quando è stato verificato che l'entità delle somme spostate coincideva con i documenti acquisiti nel corso dell'inchiesta, i magistrati hanno ritenuto che fosse giunto il momento di sollecitare l'archiviazione del fascicolo. Ovviamente tuonano dalle prime pagine dei giornali sia il giornale Libero, i due giornali che più hanno condotto questa campagna sulla casa Monte Carlo, i PM graziano Fini, questo è il titolo di Libero, mentre il giornale Fini è indagato ma l'hanno nascosto, con il direttore Alessandro Sallusti che dice: ecco qui, Gianfranco Fini è indagato per truffa aggravata per l'appartamento di Monte Carlo, lo è da mesi ma non lo sapevamo, mai prima d'ora un PM aveva avuto tanto rispetto per la privacy di un personaggio politico o pubblico. Tanta prudenza cozza con la spregiudicata fuga di notizie dal Tribunale di Milano su un'inchiesta che coinvolgerebbe Silvio Berlusconi. Ne ha dato notizia ieri il Fatto Quotidiano, si tratta delle dichiarazioni di una ragazza marocchina, probabilmente minorenne, che avrebbe raccontato di aver conosciuto Berlusconi. Ed eccolo qui, insomma, Alessandro Sallusti mette la disparità di trattamenti a suo vedere, se del fatto che Fini era indagato ma è stato nascosto, come dice il giornale, mentre invece di Berlusconi rischia di deflagrare questa inchiesta che ieri, come detto, era anticipata dal Fatto. Oggi il Fatto ci fa la prima pagina, peraltro seguito dall'Unità, anche l'Unità mette in prima pagina Berlusconi con il titolo «L'ultimo incubo del Premier, minorenne accusa la Procura di Milano, indaga sui rapporti con una ragazza marocchina». Ma certo, bisogna prendere il Fatto Quotidiano, perché ieri l'ha anticipato e oggi è il quotidiano più informato. Come detto, il titolo di prima pagina è Berlusconi, la minorenne e quella strana adozione. Ne parla ancora a pagina 3 Gianni Barbacetto, la storia di Ruby, una minorenne ad Arcole. La ragazza si chiama Ruby, è tuttora minorenne, ospite di una comunità protetta, compirà 18 anni a novembre, solo allora potrà decidere di lasciare la comunità. Ha dichiarato di aver avuto alcuni incontri nella villa di Arcore col presidente del Consiglio, feste con altre ragazze e ospiti VIP. Nessun coinvolgimento per ora per Silvio Berlusconi. Il procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati ha smentito l'esistenza di un'indagine sui rapporti tra una ragazza e Berlusconi alla procura. E dice Barbacetto, i racconti di Ruby sono tutti da verificare, sono dichiarazioni che potrebbero essere dettate da spirito di rivalsa, desiderio di vendetta, tentativo di ricatto. Certo che c'è una vicenda, questa di un'adozione strana, la racconta il Fatto. Vale a dire, un avvocato milanese ha presentato al Tribunale dei Minori una richiesta per adottare Ruby. L'aspirante mamma è Diana Mora, la figlia di Lele Mora. L'avvocato non è un esperto di diritto di famiglia, non è uno qualsiasi, è Luca Giuliante, ex consigliere provinciale di Forza Italia, tesoriere milanese del partito di Berlusconi e legale di Formigoni nella vicenda del ricorso contro l'esclusione del suo listino. L'avvocato Giuliante aveva firmato anche il ricorso contro richieste milionarie del fisco a Lele Mora, insomma una procedura per l'adozione che non è mai stata completata. Certo, però ci sono i nomi dei protagonisti, fa il Fatto, intervista anche persone che hanno conosciuto questa Ruby, tale per esempio Maristel Garcia Polanco, che lavora in TV. Raggiunta dal Fatto, risponde ad alcune domande, appena le chiediamo se conosceva Ruby, di queste cose non posso dirti niente, chiude così l'intervista. Questo Gianni Barbacetto sul Fatto, ma guardate che è su tutti i giornali, anche il giornale e Libero la mettono in prima pagina, Libero per esempio la mette così. Un'altra ragazzina per infangare Silvio. In prima pagina Gianluigi Nuzzi, i giudici cercano un'altra Noemi. Secondo Libero, i giudici, insomma, starebbero cercando di incastrare Berlusconi. Anche i praticanti sanno che finire a letto con una ragazza minorenne determina l'accusa di violenza sessuale. E allora, coi dovuti se, ma e i condizionali del caso, Gianni Barbacetto sul Fatto ha lanciato questa questa storia. La storia che racconta Libero nasce da una costola dell'inchiesta su Fabrizio Corona e sulle premiate scuderie di Lele Mora. Un'avvenente marocchina, classiche misure giuste al posto giusto, nome d'arte Ruby, era in portafoglio al noto manager. Questa minorenne sarebbe stata segnalata a Lele Mora, che avrebbe cercato di immaginare per lei delle prospettive del mondo della TV. E tra l'altro sarebbe tutto nato, questa vicenda, racconta Gianluigi Nuzzi, da una rissa in una casa a Milano con Ruby, questa ragazza tra i protagonisti. Lei finisce al commissariato e dice ai poliziotti: guardate che io conosco Silvio Berlusconi. E anche i poliziotti: come, conosce il presidente? Certo, come no? E via congetture a cascata. Anche per Il Giornale, altri veleni sul Cavaliere. Luca Fazzo a pagina 4, in arrivo un sexy scandalo. Nonostante la procura di Milano, con Bruti liberati, appunto, il procuratore dice nessuna inchiesta, le anticipazioni del Fatto portano a un possibile nuovo caso D'Addario. Ora il traffico. In primo piano. Nel giorno in cui Il Sole 24 Ore apre appunto con i dati sulla ripresa non incoraggianti, ripresa sempre più lenta, una ripresa macchia di leopardo, tra l'altro a pagina 3, proprio la Lombardia, vale a dire il motore italiano a passo ridotto, scrive Attilio Geroni, proprio legato a questo tema c'è un'interessante intervista che Lina Palmerini fa a Niki Vendola, leader di Sinistra Ecologia e Libertà. Un'interessante intervista perché Vendola parla a lungo del rapporto proprio con le imprese. Le imprese si fidino di me. Così Vendola, che parte dalle polemiche sulla dichiarazione di Marchionne e l'Italia. Marchionne non è lui che può svolgere il ruolo della pubblica accusa nella classe dirigente. Il sistema di imprese è stato complice di una gigantesca pigrizia culturale legata a un'idea leggera e di facili costumi della competitività da guadagnare per intero attraverso la compressione del costo del lavoro e della progressiva semplificazione delle relazioni industriali. Tanto che Lina Palmerini chiede: beh, ma è la retorica del comunista la sua? Guardi, nella mia regione agli imprenditori ho detto: amici miei, c'è bisogno di affrontare la globalizzazione, non abbiate paura, non fatevi incantare dalle sirene che invocano dazi. Su Marchionne però la scarsa competitività di cui parla è un dato. Ma l'Italia, chiede Vendola, è in affanno perché ci sono dei furbi a Pomigliano o perché per esempio la Fiat ha investito pochissimo ed è stata indotta pochissimo a investire in innovazione? I problemi di cui parla Marchionne sono in molti casi oggettivi, ma la causa va ricercata altrove. Ecco cosa propongo io alle imprese: finanziamenti che incentivino la crescita dimensionale, la crescita qualitativa, l'ambientalizzazione degli apparati produttivi, la formazione permanente. Questi fattori competitivi, nella mia visione, mettere insieme sapere e lavoro, cercare un compromesso avanzato tra economia ed ecologia. E invece, dice, la politica del governo è un'assenza di politica industriale, visto che per lungo tempo non c'è stato nemmeno un ministro. Insomma, interessante l'intervista di Vendola, che poi attacca anche Tremonti. Il disastro è Tremonti, con corresponsabilità di Padoa-Schioppa. Il contenimento del debito è stata fuga dalla crescita. Attacca il ministro Sacconi: mai l'Italia aveva avuto un ministro che entrasse nel gioco delle parti sociali drogandolo e truccandolo. E poi sulla Fiom, invece, non faccio il partito della CGIL, ma sono grato alla Fiom per aver fatto battaglie non minoritarie sui diritti di Maurizio Landini, segretario della Fiom, dice questo Vendola. Trovate molto da stigmatizzare, e stigmatizzabile, davvero condannabile, quello che è successo al portavoce del PDL Capezzone ieri, aggredito con due pugni da una persona in Via dell'Umiltà alle 19:20, una persona che poi si è dileguata. Non ci sono interviste perché Capezzone ha passato la sera in ospedale. Ha solo qualche frase a Repubblica: sono scosso, vorrei riposare, sono abituato a girare in bus, in metropolitana, mi sono sempre sentito sicuro, mai mi sarei aspettato questo. Capezzone aggredito in strada, colpito al viso, è uno shock. Su Repubblica, ma davvero lo trovate su tutti i giornali, come trovate su tutti i giornali la vicenda di Tareq Aziz, condannato a morte l'ex numero 2 del regime iracheno, con sotto Saddam Hussein, è anche il motivo per cui il Corriere con Paolo Valentino fa l'editoriale di prima pagina, il giudice di Baghdad, una condanna a morte di Tareq Aziz che provoca lo scatto della ragione da parte della Corte Suprema irachena. Non uccidete l'ex scudiero di Saddam, rispettare i diritti umani anche di chi ne ha fatto scempio nel modo più grave, e Aziz rientra sicuramente in questa casella, è un comandamento universale iscritto nel codice genetico forgiato dai lumi che va fatto valere sempre, tanto più quando i crimini sono particolarmente odiosi. Così inizia l'editoriale Paolo Valentino. Ne parleremo alle 8:20 con Emma Bonino, che sarà nostra ospite nell'intervista. Mentre alle 8:30 il tema del nostro sondaggio, ricordo, parleremo di immigrazione. È pieno sui giornali dei rapporti del rapporto Caritas sugli immigrati. Ognuno ovviamente dei giornali ha preso sfaccettature diverse di questo rapporto. Per il Sole, dagli immigrati l'11% del PIL, sono quasi 5 milioni in Italia. Per La Stampa, i nuovi italiani sono 5 milioni, crescono il PIL e i sospetti. Per Libero, diminuiscono i clandestini, l'Italia non è più il Bengodi. Vedete che ognuno ha scelto, ogni giornale ha scelto un aspetto, quello che più gli conviene. Il Papa, emigrare è un diritto, questo su Avvenire. Immigrati, 5 milioni regolari, ma gli italiani sempre più ostili, questo sul Messaggero. Noi vi chiediamo, proprio su quello che ha detto il Papa, che dice emigrare è un diritto e accogliere un dovere, siete d'accordo oppure no? E che dire, chiudiamo, trovate anche la foto del polpo, quello che, non so, Filippo Oreggi dall'altra parte esulta, non lo so perché, quello che azzeccava, pare, così dicono tutti i risultati dei mondiali, è morto, il polpo Paul. E Gene Gnocchi oggi è fantastico, rompi pallone sulla Gazzetta, è morto, il polpo Paul. Stasera porta a porta il plastico dell'acquario, il GR. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:21, ben ritrovati da Alessandro Milan, protagonista della nostra intervista è la vicepresidente del Senato, Emma Bonino. Senatrice, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Allora, in Iraq la pena di morte è comminata a Tareq Aziz, c'è una mobilitazione, il leader storico dei radicali, Marco Pannella, ha indetto uno sciopero totale di fame e sete. Perché ci dovremmo mobilitare per Tareq Aziz? Non solo perché la mobilitazione in generale contro la pena di morte è stata ed è una grande battaglia di civiltà e di civiltà giuridica che ha visto impegnato non solo i radicali ma l'intero paese fino alla moratoria dichiarata dalle Nazioni Unite, ha visto recentemente una grande mobilitazione per Sakineh e devo dire anche per il caso Teresa Lewis negli Stati Uniti. Ma c'è un elemento in più, tutto politico, in questa condanna, in questa decisione di esecuzione per impiccagione. Non solo perché tutto il procedimento giuridico è stato inaccettabile dal punto di vista delle garanzie dell'imputato, ma perché sembra molto chiaro che si tratta più di una vendetta che altro, ma soprattutto si tratta di chiudere la bocca, dopo già Saddam Hussein, impiccato anche lui, ucciso anche lui, per chiudere, mettere una pietra miliare sul passato e su quello che è avvenuto per quanto riguarda la guerra in Iraq, rispetto alla quale, che siano i documenti di WikiLeaks, che siano la commissione investigativa inglese o le audizioni americane, cominciano a rompere il velo sul perché della guerra, come è stata condotta, perché noi vogliamo sapere da radicali non sia stata accettata l'iniziativa invece per l'esilio obbligato a Saddam Hussein, sì, che era un'iniziativa sponsorizzata soprattutto dagli Emirati Arabi e che doveva essere discussa dalla Lega Araba del 3 marzo, che invece Gheddafi fece saltare. Insomma, tutte queste di lati oscuri che riguardano quegli anni e quelli. Ma se lei lo proporrebbe anche, non so, l'Italia potrebbe proporsi per l'esilio di Tareq Aziz, lei la vedrebbe una mossa positiva? Ma io credo che la questione intanto non è neanche una novità, una serie di dittatori, basta pensare a Mobutu piuttosto che a Mindada, sono stati in qualche modo costretti a lasciare il paese, in modo da evolvere il paese in altra direzione senza guerre, senza troppo spargimento di sangue. Credo che da questo punto di vista la punizione del carcere in ogni caso o dell'esilio obbligato è una di quelle strade che sono l'alternativa possibile a guerre sanguinose come quella che abbiamo vissuto in Iraq, da lati molto scuri e dagli esiti incerti, oltre che da uno spargimento di sangue impressionante. Mi faccia fare due domande politiche, vicepresidente del Senato. Nel termometro della politica sui giornali si torna a parlare oggi, ma un giorno sì, un giorno no, di possibili elezioni a primavera. Secondo lei si andrà in questa direzione? Ma io spero proprio di no. Credo che un paese che va a elezioni ogni due anni è un paese assolutamente incredibile, nel senso di non credibile a livello, per esempio, internazionale. Credo anche che c'è una responsabilità di governare da parte della maggioranza che ha vinto le elezioni. Lo dicevo quando qualcuno fece cadere il governo Prodi, come forse ricorderete, e fummo definiti gli ultimi giapponesi di Prodi, perché credo nel modo più assoluto che questa idea sincopata di un paese che ogni due anni, per ragioni peraltro oligarchiche, interne, di palazzo, spinge tutto il paese alle elezioni, è davvero una situazione inaccettabile. E dunque, nel caso dovesse esserci una crisi, il governo tecnico lei la vedrebbe come un golpe, come qualcuno dice, o una possibilità come un'altra? Ma innanzitutto non vedo neanche perché ci dobbiamo arrivare. Io credo che Berlusconi vada sconfitto politicamente, vada incalzato nel senso di assunzione di responsabilità di governo. Quindi non sono neanche d'accordo su questo, di nuovo, tutti i giochi di posizionamento che mi sembrano fatti francamente per riempire le pagine dei giornali, perché non vedo come e perché Berlusconi dovrebbe dire effettivamente sono un po' stanco, faccio un giro nei Caraibi, governate voi, magari con Tremonti. Cioè, tutto questo mi sembra veramente una cosa che si fa per riempire le pagine dei giornali e non occuparsi dei problemi del paese. Questo è il punto sostanziale. Senta, ha visto Di Capezzone, un vecchio amico, insomma, ex radicale, insomma, aggredito ieri il portavoce del PDL, un paio di pugni, insomma, dove stiamo andando? Stiamo andando ad una situazione di una inaccettabile, io l'ho chiamato ieri sera perché appunto gli avversari politici non sono i nemici. Che le ha credo detto? Che lo dico io. No, dico che le ha detto Capezzone? Che stava un po' meglio, ma ho ritenuto di farlo perché credo che gli episodi contro Bonanni a Torino, altri episodi, debbano essere stroncati sul nascere, perché questi sono germi che rischiano di germinare molto velocemente e poi molto difficili da fermare. E credo che questa deriva ancora di questo modo di esprimere la propria rabbia o le proprie contrarietà va assolutamente condannato ed evitato. La ringrazio, buona giornata. Grazie a lei, buongiorno. Vicepresidente del Senato Emma Bonino, grazie per essere stata con noi. Noi ci fermiamo per pubblicità e meteo, poi parliamo di immigrazione, proprio nel giorno in cui ieri la Caritas ha reso noto, insomma, il rapporto annuale che fa sull'immigrazione, con dati molto interessanti da commentare. Il Papa poi nel messaggio per la giornata del migrante e rifugiato ha detto varie cose, tra cui emigrare è un diritto e accogliere un dovere. L'abbiamo tradotto nella nostra domanda, nel nostro sondaggio, vi chiediamo siete d'accordo su questa posizione. Votate su radio24.it oppure chiamateci 800 24 00 24 tra pochissimo. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:33 minuti e allora parliamo di immigrazione nel nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Proprio nel giorno in cui la Caritas ha reso noti i dati sul dossier annuale sull'immigrazione, dati molto interessanti, vedremo questi aspetti, e proprio nel giorno in cui il Papa nel messaggio per la giornata del migrante e del rifugiato ha detto, tra le altre cose, emigrare è un diritto, accogliere un dovere. È questo che vi chiediamo, voi siete d'accordo, vi state dividendo per il momento a metà. Tra l'altro interessante vedere, e lo vedremo con uno degli ospiti, come viene declinato sui giornali il rapporto Caritas Caritas, che appunto ha moltissime sfaccettature. Gli elementi più interessanti, leggo dal Sole 24 Ore: ogni 12 residenti in Italia uno è immigrato, sono 4.919.000 le presenze, un numero aumentato di 20 volte negli ultimi 20 anni. Contribuiscono gli stranieri all'11,1% del PIL, a mantenere inattivo le casse dell'INPS, visto che gli immigrati versano alle casse pubbliche più di quanto ricevono, 7 miliardi di contributi previdenziali all'anno, che hanno garantito proprio il risanamento del bilancio INPS. Ma ci sono anche tanti altri dati: la concentrazione maggiore in Lombardia col 23%. Insomma, ne parliamo con Franco Pittau, che è il coordinatore, da anni si occupa di questo, il dossier statistico della Caritas Migrantes. Buongiorno professor Pittau. Buongiorno. Così come voglio salutare il senatore della Lega Nord, Sandro Mazzatorta. Senatore, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Senta, io partirei da lei, perché proprio mentre si parlava di questi dati molto interessanti che oggi sono sui giornali, l'altro ieri per esempio la Cassazione ha fatto una sentenza che riguarda tutto un altro caso, vale a dire una cittadina immigrata che aveva fatto un reato di credo sfruttamento della prostituzione, quindi foglio di via, lasci l'Italia, dopodiché si è appellata dicendo: io ho i figli qui, come faccio? Ho i figli qui. E quindi la Cassazione gli ha dato ragione dicendo: la tutela dei figli e dei minori viene prima della tutela delle frontiere dello Stato, della sicurezza dello Stato. Ecco, perché c'è sempre questo approccio, cioè queste notizie finiscono sui giornali, e le chiedo anche un parere su questo, più che i dati molto interessanti della Caritas di oggi? Ma guardi, innanzitutto il caso che ha deciso la Cassazione è un caso particolarissimo e che va anche spiegato. Si tratta di una nigeriana che era stata condannata per sfruttamento della prostituzione con sentenza definitiva, dunque era destinataria di un provvedimento di espulsione, ha 3 figli minori che aveva abbandonato sul territorio nazionale, tanto vero sono stati affidati a una famiglia italiana. Però interpretando la Cassazione questo articolo 31 del testo unico sull'immigrazione, ha ritenuto che ci fossero gravi motivi la Cassazione per concedere un permesso di soggiorno a questa nigeriana per motivi familiari. È un'interpretazione estensiva di una formula contenuta in questa legge che parla di gravi motivi per permanere sul territorio nazionale in deroga a tutte le norme sull'ingresso e sul soggiorno del nostro Stato. Secondo me è una sentenza sbagliata, perché fa un bilanciamento tra due valori che sono, da un lato, la tutela delle frontiere e della sicurezza del nostro Stato, dall'altro il valore della tutela del minore, ma fa questo bilanciamento in maniera sbagliata, dicendo in sostanza che non deve esserci, come si riteneva fino ad oggi, una situazione di emergenza che possa mettere in pericolo la salute del minore, ma basta solo che ci sia una situazione in cui serva per lo sviluppo psicofisico del minore la presenza del genitore, ripeto, in questo caso di un genitore che addirittura aveva abbandonato i 3 figli. Sì, tra l'altro, una sentenza, lei dice, sbagliata, poi anche in controtendenza rispetto ad altre sentenze del passato. Non so se il professor Pittau, se vuole partire da qui, è un aspetto marginale, però nel dossier, nell'ampio dossier, parlate anche per esempio di quanti sono gli immigrati irregolari, quante sono le espulsioni, ci dica un po' se sono aumentate, diminuite l'ultimo anno, e ci dica che ne pensa su questo fatto specifico, poi parliamo del dossier. Beh, diciamo, in Italia continua sempre c'è sempre uno sbocco di irregolari, come c'è in altre parti del mondo. Pensiamo che negli Stati Uniti vanno più di 1 milione di irregolari l'anno, quindi tutto sommato in proporzione ci va anche bene. Ci sono state le norme restrittive, sono stati ridotti gli sbarchi, però bisogna tener conto che in un paese come il nostro, dove vengono ogni anno più di 30 milioni di turisti e si concede 1,5 milioni di visti per lo più per motivi passeggeri, la irregolarità nasce attraverso le vie irregolari, non sono tanto gli sbarchi oppure passare proditoriamente le frontiere, ma sono questi arrivi normali. Allora noi insistiamo molto, la Caritas, la Migrantes, nel rendere più incentivante la via regolare d'ingresso e il percorso di integrazione, perché questo, attraverso le catene che rappresentano le collettività, può dissuadere dal tentare la via irregolare, che oltretutto è costosa dal punto di vista finanziario e molte volte è rischiosa anche per la vita. Senatore Mazzatorta, venendo ai dati più interessanti, dagli immigrati l'11% del PIL, e il dossier sottolinea come gli immigrati versino alle casse pubbliche più di quanto ricevono come prestazioni e servizi sociali, 7 miliardi di contributi previdenziali, tanto che qualcuno ha titolato, non so, l'Unità, ecco, gli immigrati ci fanno un paese felice e ricco. Forse lei la vede come un'esagerazione, però che ne pensa lei, che fa parte di un movimento spesso accusato di essere contro l'immigrazione? Non mi dica, va bene che vengano qui rispettando le regole, insomma, a volte, insomma, qualche tono duro lo avete avuto sull'immigrazione in generale. No, ma va letto tutto il rapporto Caritas, parla anche di un costo allo Stato degli immigrati di circa 10 miliardi di euro all'anno, dunque contribuiranno pure al PIL, ma hanno anche un costo molto forte. Io aggiungo a che il rapporto Caritas non considera i costi indiretti dell'immigrazione, pensi solo al tema della criminalità di matrice extracomunitaria, dei costi sociali e economici che sosteniamo per far fronte a questa criminalità, ai servizi pubblici, al lavoro, eccetera. Dunque io sinceramente dico, l'Italia farebbe bene a fare quello che ha fatto l'Inghilterra. L'Inghilterra andava avanti a luoghi comuni dicendo che l'immigrazione è una risorsa, poi ha fatto l'House of Lords nel 2008, ha fatto uno studio econometrico facendo un'analisi costi e benefici dell'immigrazione nel Regno Unito, ed è stato pubblicato nel 2008 questo studio dell'House of Lords che si intitola Impatto economico dell'immigrazione. Il risultato è che i costi dell'immigrazione erano superiori ai benefici. Tanto è vero che l'Inghilterra, dopo quello studio del 2008, ha cambiato o sta cambiando il sistema di ingresso degli immigrati. In questo caso l'Inghilterra ha scelto un nuovo sistema, che è quello della selezione dell'immigrazione in base a punteggio. Quel sistema che oggi è in discussione, perché pare che anche Veltroni dopo appunto, noi, però Veltroni si è arrabbiato, dice: non, per carità, io non faccio come la Lega, perché l'arrivo a punteggio poi finisce con la cittadinanza, insomma questo sarebbe il percorso previsto da Veltroni. Qui la differenza con la Lega, dice. Ma a dire la verità, io ho letto il documento semplicemente dice che bisogna andare verso un sistema di selezione dell'immigrazione in base alle competenze, alle professionalità, come dire, al curriculum dell'immigrato, non in base al sistema cronologico che abbiamo oggi dei flussi migratori. Interessante, professor Pittau, qui il senatore Mazzatorta mette un po' in dubbio la questione dei costi, cioè i costi non sono solo l'11% del PIL a cui contribuiscono gli immigrati o i 7 miliardi di versamenti ai contributi previdenziali, insomma ci hanno risanato l'INPS, come qualcuno ha titolato, ma costi che non avete calcolato, quelli della criminalità indiretta. Io vorrei precisare che il dossier è un rapporto molto voluminoso, 512 pagine, giustamente, essendo stato presentato ieri, i lettori non hanno potuto leggere, certo, tutto. Anche i giornali. Noi mettiamo in conto le spese per la giustizia, anche abbondantemente, 2 miliardi di euro, le spese per le espulsioni, anche abbondantemente, mezzo miliardi di euro, e calcoliamo tutto quello che si può calcolare. Siccome noi conosciamo anche lo studio che ha citato il senatore, e quando troviamo delle cose interessanti seguiamo l'esempio, diciamo, questo studio che la Caritas e la Migrantes presentano è quello più aggiornato e più documentato, quindi non è che non abbiamo tenuto conti, anzi posso dire di più, noi proprio per essere accettati in questa conclusione che gli immigrati danno di più di quello che si spende per loro, non abbiamo tenuto conto del metodo pur fondato della spesa aggiuntiva, perché pensi, in una scuola, le spese per la scuola sono state contingentate molto abbondantemente, in una scuola dove ci sono 15 ragazzi e due insegnanti, un bidello, si ripara la scuola, tutto quanto, noi abbiamo diviso per l'immigrato che arriva per un sedicesimo, e in questo non è vero, perché comunque l'insegnante l'avrebbero pagato lo stesso, la scuola l'avrebbero riparata, quindi ci siamo allargati nei costi, e ciò nonostante è a vantaggio del sistema Italia, e questo ci fa piacere, perché noi vogliamo bene all'Italia e vogliamo bene anche gli immigrati, almeno la maggior parte. Allora sentiamo 800 24 00 24, quando si parla di immigrazione inevitabilmente le telefonate sono sempre molte, a me fa piacere, vogliamo sentire che ne pensa Mustafa da Padova. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Milan, e buongiorno ai suoi ospiti. Di dov'è lei, Mustafa? Io sono del Marocco. Marocchino, dica. Sì, io quello che ha detto il Papa è sacrosanto e andiamo d'accordo per quello che ha detto il Papa. Ma la politica cosa sta facendo riguardo all'immigrazione? Il problema dell'immigrazione non è adesso, non è nemmeno la nazionalità per i bambini, che prima o poi questo problema va affrontato. E il problema dell'immigrazione è fra 20 anni, fra 25 anni, e questa classe dirigente, ancora i precedenti, quella a venire purtroppo, si è abituato solo a rinviare i problemi, ma mai affrontarli. Cioè, come dovrebbe affrontarli, secondo lei? Cosa bisognerebbe fare come prima cosa? Adesso noi stiamo parlando di quello che stiamo vertando, ma fra 20 anni, fra 25 anni, noi pretendiamo di ottenere la pensione come qualsiasi altro cittadino italiano, o mi sbaglio? Cioè, il problema... Beh, se uno è regolare, paga le tasse, lavora, insomma, che problema fai, paga i contributi, certo, insomma, dovrebbe avere una qualche forma previdenziale, lei dice, no? Mi scusi, dottor Milan, se adesso qualche esponente politico lo sento dire, ma l'asilo per i bambini italiani e gli extracomunitari, la cassa integrazione per gli italiani e poi guardiamo gli immigrati, perché la coperta è corta, ma si corta adesso. Fra 20 anni, come diventerà questa coperta? La coperta corta, sì, il cellulare un po' è andato via, però lei dice giustamente, se la coperta è corta ora, chissà tra 20 anni. Allora, interessante, da qui ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Eccoci qua, 8:48 minuti, e sentiamo che ne pensa Domenico dalla provincia di Lecco. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, mi sente? Bene, dica. Sì, niente, io sono d'accordissimo con il Papa quando dice che bisogna accogliere gli immigrati, soprattutto quelli che scappano via da guerre più che altro. Perché io vorrei portare a... Ma adesso non la sento più, la recuperiamo Domenico. Senatore Mazzatorta, l'ascoltatore di Padova, Mustafa, poneva un problema che oggi tra l'altro viene citato anche proprio dalla Padania, prendendo lo spunto dal rapporto della Caritas, cioè oggi i pensionati, 1 su 30 immigrati è pensionato, 1 su 30, nel 2025 saranno 1 su 12 gli immigrati pensionati. Insomma, Mustafa dice, noi paghiamo le tasse, noi siamo qui, vorremmo anche noi la pensione, perché c'è l'identificazione, come ha detto lei all'inizio, sono anche un costo, la scuola, quanto spendiamo di scuola, sanità, ma insomma, se pagano tutto regolare, perché dovremmo sottolinearlo questo costo che paghiamo per gli immigrati? No, ma cioè non sono cittadini di un paese, li chiamiamo immigrati o no? Insomma, no, non sono cittadini, sono ospiti temporanei di un paese che li ospita, che ha una legislazione che, come dire... Però fin tanto che stanno qui, parliamo di quelli tutti regolari che pagano i contributi, fin tanto che stanno qui, se pagano tutto non hanno lo stesso diritto a un italiano? Ma infatti abbiamo delle leggi anche in materia previdenziale molto favorevoli, addirittura poi con una serie di interpretazioni della Corte Costituzionale è consentito anche chi è qua da pochi giorni di ottenere pensioni di invalidità. Se chiede all'INPS le farà sapere che ci sono numerose pensioni di invalidità concesse ad immigrati anche con un semplice permesso di soggiorno, che sono qua da pochi mesi. Teniamo conto anche che noi abbiamo un sistema previdenziale in base al quale se uno straniero versa i contributi previdenziali e poi se ne va dal nostro territorio gli devono essere restituiti, quindi bisognerebbe anche stare attenti poi a livello economico se questi contributi previdenziali che oggi versano poi un giorno non dovremo restituirli perché decidono di abbandonare il nostro territorio. Dunque il tema dell'analisi economica dei costi dell'immigrazione è un tema molto delicato che io non affiderei sinceramente solo alla Caritas, che con tutto rispetto e l'ammirazione è un po' di parte, ma affiderei proprio a un'istituzione neutrale che faccia davvero quello che ha fatto il Regno Unito, cioè che calcoli davvero quali sono i costi reali dell'immigrazione in modo tale da togliere spazio a questo luogo comune e verificarlo sul campo. Se è una risorsa l'immigrazione regolare, allora lo riconosciamo attraverso questa analisi. Se non lo è, come noi sosteniamo, perché il rischio è che oggi ci sia una situazione economica che non ci consente più di avere quei flussi migratori che l'Italia poteva sopportare anni fa. Noi abbiamo 2 milioni di disoccupati, di giovani italiani. Sì. non possiamo far fronte a questa situazione aumentando ulteriormente prima gli italiani, dice, prima gli italiani. Professor Pittau, risponda alla replica di essere parte, diciamo, e poi rilancio anche con una domanda oltre a rispondere a questa. Mi dica, da quello che esce sui giornali, chi c'è chi pone il PIL l'11%, c'è chi dice gli immigrati clandestini, non siamo il paese del Bengodi, cioè ognuno ha dato il taglio e la lettura che ha voluto, che cosa invece secondo lei è il fulcro di questo rapporto? Prego. Ma il fulcro di questo rapporto è di raccogliere tanti dati e vedere che cosa dicono. Noi non siamo di parte, mi dispiace quello che ha detto il senatore, perché questo ci viene riconosciuto da tutti. E, diciamo, apprezziamo tanto il Regno Unito, il dossier è un prodotto, e questo dossier che dura da 20 anni, proprio per questa imparzialità e raccolta di tutti i dati, ci viene invidiato in tutta Europa. Quindi se qualcosa di buono si fa, si riconosca anche in Italia. Però vorrei puntualizzare, gli immigrati che vengono qua non hanno diritto alle pensioni assistenziali prima di prendere la carta di soggiorno, no? Quindi non è che prendono il permesso di soggiorno e poi si prendono una pensione, no, questo non può essere. I contributi non vengono più restituiti perché c'è stato un cambiamento con la legge Bossi-Fini, che loro comunque, anche se hanno pochi contributi, prenderanno la quota parte di pensione a 65 anni. E quello che abbiamo, ma questo detto, se rimangono in Italia oppure anche se vanno all'estero? No, cioè, se la tornano. Legislazione italiana, proprio perché è basata su un secolo e mezzo di storia di emigrazione, è stata sempre molto liberale nell'esportazione. Poi l'esempio italiano è stato seguito anche da altri paesi, per esempio prima gli Stati Uniti non esportavano le pensioni in tutto il mondo. Io dico, oggi come oggi, l'immigrazione non solo è necessaria perché molti settori lavorativi resterebbero sguarniti, ma è anche conveniente perché quello che spendiamo gli immigrati è di meno, è anche molto di meno, forse anche solo 1 miliardo di euro l'anno, è qualche cosa di consistente. Perché spendono di meno di quello che danno. Insomma, se dobbiamo dirlo in maniera brutale, conviene, insomma, conviene, in termini economici. Bravo. E poi l'altra cosa, durerà all'infinito, non ci sono cose storiche che durano all'infinito, però la proiezione che noi abbiamo fatto fino al 2005 ci dice che ci sarà un differenziale di convenienza nel sistema di pensionamento, perché attualmente il flusso di pensionati, quelli che si avvicinano all'età della pensione, per gli immigrati è del 2%, perché sono molto più giovani. E nel 2025 saranno il 12%, è sempre una grande convenienza, perché nel 2025 tra gli italiani ci sarà 1 su 3 pensionato, quindi noi abbiamo bisogno di questi giovani che aiutino il sistema pensionistico. Senatore Mazzatorta, lei crede che sia molto una percezione per quel che riguarda la pericolosità sociale degli immigrati, oppure cioè sono visti con paura, oppure sono dati concreti quelli legati alla criminalità che devono fare riflettere? Innanzitutto mi faccia dire una cosa, perché ho sentito Pittau che dice una cosa che non sta né in cielo né in terra. La Corte Costituzionale, sentenza 187/2010, ha detto che non serve il requisito della carta di soggiorno, perché quel requisito per avere la pensione pone una discriminazione nei confronti dello straniero. Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010, che conferma, insomma, che ogni tanto la Caritas tende a guardare più di là che di qua. Comunque, al di là di questa polemica, il discorso della percezione sappiamo che è un discorso che noi cerchiamo di affrontare anche come Parlamento, cercando anche di rassicurare i cittadini di questo Stato, che ci siano ancora delle frontiere. Le tenga presente che uno Stato è uno Stato se ha delle frontiere e tutela delle frontiere, ma quello che bisogna, su cui bisogna davvero ragionare, sono i benefici eventuali o ragionati o misurati dell'immigrazione. Su questo tema noi dobbiamo affidare, ripeto, ad un'istituzione neutra, non alla Caritas, che fa il suo lavoro egregio, ma lo fa ovviamente con una visione particolare. Va bene, io mi devo fermare qui ringraziando il senatore della Lega Sandro Mazzatorta e Franco Pittau, coordinatore del dossier statistico immigrazione Caritas Migrantes, da decenni insomma si occupa di questo tema. C'è chi ci scrive: io dove trovo il dossier Caritas, misero cittadino? Alberto, non si abbatta così, insomma, lo trova sui siti di informazione. Guardi, le faccio una cosa, la mettiamo anche nel link di Radio 24 nella nostra trasmissione Bianco e Nero, mettiamo un link al dossier Caritas, 500 e rotte pagine. Grazie a tutti, Antonella Migliaccio in redazione e Filippo Aureggi in regia. Che dire, do la linea a Oscar Giannino come di consueto, e noi domani ci troviamo alle 7:20.